Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino dal titolo Compiti. Qui, facendo compiti di geometria, triangoli e rettangoli nascono dal nulla. Passa il tempo tra uno scherzo e una battuta. Fumandomi una sigaretta, guardo mio nipote crescere, forse fin troppo in fretta. E la vita che corre e si rincorre, in un alternarsi di epoche, ere, stagioni, generazioni che nascono e crescono, lasciando sempre in noi il loro indelebile segno.